Però non vedo ciò che avrei voluto avere di ciò che avevo disegnato, resta solo l'incisione. Soffiato via ciò che avrei voluto.